Pensiero profondo. Hai la... Risposta per voi? Sì, ma non vi piacerà. Non importa, dobbiamo conoscerla. Va bene. La risposta alla domanda fondamentale. Sulla vita, l'universo e tutto quanto è... ...42. Sì! Cosa? Cosa? Eh? 42? Sì, sì, ci ho pensato attentamente, è questa, 42. Figurati! No, no! Certo sarebbe no. stato più semplice se avessi conosciuto la domanda. Ma era la domanda! La domanda fondamentale! Di tutto quanto! Questa non è una domanda. Fuoco alle polveri! Polveri Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 42esima puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao. Qui su Radio Wombat, come tutti i lunedì dalle 16:30. Sono le 16:30? No, sono le 16:39. Vabbè, sempre 10 minuti. Sì, il quarto d'ora accademico. E dai, 42, si è detto, sono tante, continuano ad essere tante ogni settimana di più, per l'appunto. Sì, lo fa, in effetti. Sono arguto oggi. Siamo al 42, sì. Come potete sentire sulla vostra pelle, e come aveva già pronunciato il compagno Joe Snow, the winter is coming, fa un ghiaccio incredibile. Ghiaccissimo. Qui in redazione, infatti, si comincia a bubolare. Ma va bene così perché noi teniamo, come l'anno scorso, teniamo duro tutto il tempo. Ci copriamo, ecco, io oggi non sono proprio preparato in realtà per questo ghiaccio, però... Infatti ero a sconti. Però sei pieno di, ti vedo pieno di energia e pieno di calore umano. Se no il raffreddore arriva al pronti via, al 3-2-1, preso. Bene, 42 come cosa? Boh. Come cosa quando? Non lo so. Allora, 42 è il numero di sopravvissuti a questo giro. Di cosa? Proprio per il ghiaccio. Pochini. Però non vi piacerà chi sono questi sopravvissuti. I 42 sopravvissuti. I 42 sopravvissuti sono i 42 soldati svizzeri sopravvissuti al sacco di Roma del 1527. Gli unici papali sopravvissuti all'esercito dei Lanzichenecchi. Le guardie svizzere. Ma a partire da quanti? Erano 147 gli ultimi rimasti a difendere il Papa. Ci credo se stai spazzati via. Spazzati via completamente. Sì. C'è un ottimo fumetto dal nome Dago. 42. Dal nome 42. Dal titolo Dago, che ripercorre di autori spagnoli, che è edito dalla Eurocomics, se non sbaglio, che racconta proprio del sacco di Roma. È molto interessante. Ah, e fa vedere fondamentalmente quanto le hanno prese di santa ragione, oggettivamente. Bene, al di là quindi di questi 42 sopravvissuti, oggi in realtà parliamo di un sacco di cose, ma principalmente di un grosso tema che ci porta il nostro in punta di pedali. Ma lo scopriremo Tra pochissimo. Dopo una canzone. Sì. Che per che l'appunto ci puoi introdurre. Che per l'appunto parla di ghiaccio. Eccolo. Si intitola Snow o 25. Ci fosse d'aspetto, mi ammazzerebbe per la pronuncia, ma non c'è. Comunque esatto. Lo salutiamo. Ciao. Parla della grande nevicata dell'85 che c'è stata in Italia. Aha. E loro sono i Klimt 1918. Wombat. Yeah, yeah. Eccoci qua, come promesso. Questo è special. Special. Il calor del Messico. Del Messico. Cos'è? Allora, ciao Lil. Ciao, buonasera, ciao. buonasera ciao, ragazzi. Caro. Ah, che bello, che bello. Che bello. Che emozione. Sto benissimo. Sì, sì, sì. Su, tutto super. Sei venuto in bici? Sono venuto in bici, ragazzi. No, non solo. Ho preso una nevicata nei denti stamani. In bicicletta, naturalmente. Sì. E ancora mi devo finire di asciugare, tra l'altro. Questo è, ragazzi, in bicicletta si pigliano. Vabbè, fa parte del gioco. Fa parte del gioco, è il bello del gioco. Ora, il bello. Vabbè, il bello, dai, cioè, poi quando ti asciughi è molto bello dopo che ti sei preso la fredda bagnata. Quindi, insomma, se una cosa è spiacevole, poi il dopo è molto più piacevole. Allora, senti, i registi ballano a tempo. Tra poco proviamo a scaldarci. Sì. E allora, abbiamo iniziato un discorso a cui tutti colleghi. Abbiamo iniziato un discorso, avete iniziato un discorso, sì, un discorso fantastico. Noi anche tu, ragazzi. Sei noi. Abbiamo iniziato, sì, già nelle puntate precedenti avevamo annunciato che prima o poi ci sarebbe stata un grande spiegone, una grande immersione nel Mobike, in questo mondo ciclabile che è arrivato a Firenze da pochissimo, una cosa nuova. Quindi niente, abbiamo trovato, insomma, siamo alla quarta puntata di Punta di Pedale. Sarà un po' speciale, sarà un po' più lunga e cercherò di cioè, ci fai uno spiegone, diciamo, intanto, sì, su che cos'è. Allora, che può fare. Intanto il Mobike è arrivato a Firenze il 2 agosto, va bene, nella grande calura, tutti in ferie, il 2 di agosto è stato presentato questo Mobike. Cosa funziona? Cosa è? Fondamentalmente è un bike sharing a flusso libero, va bene? Vuol dire che te puoi noleggiare biciclette in città e puoi lasciarle dove vuoi, esattamente, proprio tranquillamente. Cioè, te dove vuoi, poi bisogna vedere se la lasci nel posto sbagliato, possono essere problemi. Comunque, è un'innovazione incredibile. Firenze è una delle prime città, si può dire, che fa italiane. Una cosa del genere, italiane, che fa una cosa del genere insieme a Milano, e una cosa che ha avuto un successo direi notevole, perché se ne vedono veramente tantissime. Adesso ce ne sono circa 4, sì, saranno circa 4.000 in tutta Firenze, molto semplici da usare. Se ne vedono tante a giro, se ne vedono veramente tante a giro, tantissime. E ovunque, ovunque, tutta la piana. Ovunque, assolutamente, sì. Anche perché noi ragioniamo di piana, mai solo di Firenze. Sì, assolutamente, anche perché in bicicletta si va meglio in piano che sulle colline. Certo, sì, sicuramente. Bene, bene, e che dire, dunque, appunto, grandissima novità per tutti i fiorentini, e è stata, insomma, tutti molto entusiasti, addirittura, insomma, è una cosa molto semplice da utilizzare, si vede veramente dai giovani, ai vecchi che lo usano. Si è detto la parte dopo, vero? Quando si attacca dopo. Sì, allora, scusa, quindi... Nova, perché cioè, è semplice, sì, con gli strumenti adatti. È semplice, diciamo, con gli strumenti adatti, sì. Comunque, intanto, io non sono nessuno per spiegarvelo, ve lo faccio, intanto vi faccio sentire che cosa, come l'hanno presa, come l'hanno, diciamo, introdotta, inaugurata i nostri cari rappresentanti, in particolare il nostro primo cittadino, che Nardellone, che ha attuato questo progetto in collaborazione con un'altra grande città italiana, che ha visto appunto l'ingresso recente di queste biciclette, che è Milano. Quindi appunto avrete l'onore di sentire Nardella e Sala che vi presenteranno. Sei un elettore, che, te, cioè, certo, ma stai scherzando, cioè, onore, io, odore. Beh, io, dai, insomma, sentiamoceli. Sentiamo. Il bike sharing è ormai un servizio consolidato, conosciuto in tante città del mondo, in Europa. Dobbiamo dare atto a Milano, che è stata la prima grande città italiana ad averlo lanciato in modo strutturato. Oggi però succede una cosa assolutamente nuova per l'Italia e nuova per il continente europeo, se consideriamo l'Inghilterra, diciamo, non continentale, ora senza andare a parlare di Brexit o di cose del genere. È la prima volta che nel continente europeo si presenta il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero, ovvero qualcosa di assolutamente simile al car sharing che tutti noi ormai siamo abituati a utilizzare, un servizio che non utilizza il sistema dei tradizionali bike sharing, che richiedono degli stalli da utilizzare per la loro gestione e che richiedono anche un concambio, diciamo, da parte delle amministrazioni locali in termini di pubblicità per finanziare la gestione. Si tratta invece di qualcosa di assolutamente nuovo, ripeto, e che corrisponde di più e meglio alle nuove esigenze da parte dei nostri cittadini. Credo che sia anche ideale per una città come Firenze, che è una città tutto sommato pianeggiante, delle colline meravigliose, ma che cominciano a affiorare soltanto ai confini. È la città del ciclismo per antonomasia. Voglio anzi salutare le tante società ciclistiche professionali e dilettantistiche che sono qui presenti e che abbiamo invitato, che testimoniano anche come in realtà sport, agonismo e vita quotidiana non siano così distanti. Firenze ama la bicicletta da sempre, la città di Bartali, di Gastone Nencini, di tanti altri grandi campioni di ciclismo, ma è anche la città dove le biciclette sono molto molto utilizzate. Molto, molto utilizzate. E per questo fin da scorso mandato ci siamo organizzati per poter lanciare un servizio di questo tipo. Ad oggi noi abbiamo 4.600 biciclette a stallo e tanti prelievi. L'ultimo record recente è quasi 24.000 in un giorno. Però volendo espandere questo servizio, volendo andare verso le periferie, verso la grande Milano, diventa un po' più difficile valorizzare la pubblicità che noi offriamo in cambio. Quindi è importantissimo avere questo servizio. Alla fine aggiungeremo 12.000 biciclette alle 4.650 e daremo l'opportunità a tutti di utilizzare questo mezzo, che si va a combinare con lo sviluppo del trasporto pubblico milanese. Quindi il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè ridurre il numero delle macchine in città. Non lo vogliamo fare a colpi di delibere, lo vogliamo fare accompagnando negli anni, ma intanto già in questi anni abbiamo visto una grande riduzione qua metropolitana che stiamo facendo. Figa. Posso aggiungere che sono previsti dei servizi proprio per i residenti in termini di abbonamenti e noi cercheremo di favorire al massimo proprio l'intermodalità, come ha detto il sindaco Sala, quindi la possibilità di fare della bicicletta un mezzo di trasporto che si combina con gli altri mezzi di trasporto pubblico per ridurre i veicoli privati e anche di conseguenza l'inquinamento. Eccoci. Che dire? Te capì? Ragazzi, cioè, meglio di così. Eh no, ma certo, cioè, direi perfetto, no? Sì. Allora, finalmente era quello veramente di cui Firenze, insomma, aveva bisogno, perché effettivamente, cioè, si è congestionata dal traffico, cioè, pazzesco. Infatti, bravi. Dunque, naturalmente loro non è che si limitano, questa era la conferenza stampa dell'inaugurazione. Naturalmente loro, cioè, sono persone che vivono tra noi, insomma, non è che si mettono su un piedistallo, e quindi hanno anche deciso di provarla in centro a Firenze durante l'inaugurazione, insomma, appena dopo l'inaugurazione, e hanno deciso appunto i nostri due amici, insieme alla loro combriccola di amministratori, di provarla, di fare un giro per Firenze, e quindi infatti li sentiremo sornioni che scampanellano con le loro biciclette sotto il sedere, con le nostre biciclette sotto il sedere, potrei dire a questo punto. Dai, sentiamoci una chiavetta, su, dai. Sono in questa, erano in davanti a Palazzo Vecchio. Questa era una giornalista cinese. Maneggevoli, facili. Quindi direi che è un buon prodotto. Qui c'è tanto, vabbè, a Milano un po' di meno, ma ce n'è. Quindi è importante avere gomme così, che non si bucano, e questa maneggevolezza, quindi soddisfatto. E giù si scampanella, ragazzi. Sono felice. Noi una soluzione molto conveniente, perché non dobbiamo mettere in campo pubblicità né stalli che potrebbero appunto essere bloccati, vista l'importanza di tutelare il centro storico, ma oltre a questo è un servizio atteso da tanto dai nostri cittadini, utile anche ai visitatori. Era un punto del mio programma di governo, sono molto orgoglioso di presentarlo oggi e di farlo con un'altra grande città, Milano, con cui abbiamo cominciato un percorso di cooperazione su molti fronti. Credo che più città in Italia si affaccino sul tema dei smart service, della mobilità intelligente, elettrica, verde, e più noi diamo un buon esempio a tutti gli altri. Questa frase non ha molto senso, sinteticamente. Vabbè, dai, ragazzi, no, vabbè, ma è così, come si può essere contro un'iniziativa del genere? Lo chiediamo a te. Dire. No, allora sì, intanto appunto loro hanno spiegato, hanno fatto la loro presentazione. Io intanto sono andato sul sito del Mobike a tirar fuori come di fatto funziona, no? Come si fa? Allora, intanto ho aperto il sito, è mobike.it o .org, va bene? E intanto le prime frasi che si leggono sono queste. Io cito alcune cose, va bene? Quindi il trasporto è uno dei bisogni principali dell'uomo, soprattutto per le piccole distanze. Poi prosegue: conveniente, pratico, verde, è compatibile e riduce il traffico. Più o meno sono le cose che dicevano i nostri amici. Allora, tutto avviene attraverso un'applicazione che si può scaricare con uno smartphone, va bene? Quindi si va sul sito di Mobike, si scarica questa applicazione che ti richiede un deposito, va bene, di un euro, quindi insomma è una cosa abbastanza, cioè, niente di che. E a quel punto che hai l'applicazione, la apri, va bene, e puoi vedere dove sono le biciclette intorno a te. C'è una mappa di una mappa della città dove vengono segnalate con dei pallini rossi le biciclette. Te ti scegli quella più vicina e semplicemente con un click, va bene, la prenoti. Naturalmente l'applicazione è legata alla tua carta di credito, per i pagamenti. Tu devi avere una carta di credito. Devi avere una carta di credito e uno smartphone, naturalmente, perché comunque devi averci. Ho visto che nei c'è tempi moderni. C'è un blocchettino dietro sulla ruota posteriore. Sì, ora guarda, ci arrivo. Allora, quindi ti scarica l'app, prenoti la bicicletta più vicina, ti rimane prenotata per circa 15 minuti. La prenotazione è gratuita, quindi puoi decidere se prenderla oppure non prenderla. Fatto sta che te poi, una volta raggiunta la bicicletta, se la vuoi prendere, la puoi sbloccare. Appunto, sì, come dicevi te, c'è un codice a barre, un Q-code, che appunto o fotografandolo con il telefono attraverso l'applicazione, oppure digitando il codice che è scritto appena vicino al Q-code, la puoi sbloccare. C'è un sistema di sbloccaggio con un lucchettone che ancora la ruota. Che sì, blocca la ruota. Che tu col cellulare pigi non so bene cosa, esatto. E te la attivi, o te lo chiude. Sì, no, sì, sì, esatto, la attivi, quindi la sblocchi mano. Tramite Bluetooth. Tramite Bluetooth. L'appunto l'ho visto ieri sera. Esattamente. È successo. Esattamente. No. Quindi ci vuole tipo quanto? 30 secondi. 30 secondi te ti sei preso la tua bicicletta. Ci vai dove vuoi andare, monti su, ti fai la tua giratina fino a che ti serve e poi a un certo punto la dovrai lasciare, sei arrivato dove desideravi, quindi la dovrai ribloccare. Bene, quindi dove la lasci? Cioè, mi ricordo che il vecchio bike sharing esatto. C'erano dei posti apposta dove tu... Esattamente, i famosi stalli che dice Nardella, esatto. quelli sono dei posti fissi, esatto, questi qui sono a flusso libero, quindi te praticamente avendo questo sistema di sbloccaggio che è integrato, di sbloccaggio e di bloccaggio che è integrato nella bicicletta, te hai la possibilità fondamentalmente di bloccarla all'incirca dove vuoi, cioè se te devi andare alle poste la puoi lasciare tranquillamente lì di fronte alle poste. Devi stare un attimo attento a non lasciarla in posti naturalmente, cioè questo sta alla civiltà delle persone, ecco, di non lasciarla in posti dove possono ostruire il traffico oppure possono ostruire il passaggio dei pedoni sul marciapiede o insomma bisogna avere un attimino di civiltà. Bene, quindi te la blocchi, appunto in queste ci sono delle aree che sono adibite preferibilmente al parcheggio delle biciclette, sono queste MPL, le vedete in città, sono praticamente dei parcheggi, si vedono delle strisce gialle con all'interno una bicicletta, quelli sono i parcheggi ufficiali adibiti a... preferiti da preferire per il parcheggio delle biciclette. Alla fine, dopo che te l'hai bloccata, sempre attraverso l'applicazione, ti arriva un riepilogo del viaggio. Va bene, quindi ti arriva un messaggino con il riepilogo di che strada hai fatto, quanti chilometri hai percorso, il dislivello e via discorrendo. Ci sono veramente un sacco di cose. E tu paghi a seconda di questo? Allora, meno saggio, no? Esatto, ci sono delle tariffe, va bene? Ci sono delle tariffe. Abbiamo detto c'è un euro di deposito e poi fondamentalmente il costo è di 50 centesimi ogni mezz'ora. Era di 30 centesimi inizialmente, è stato il prezzo di lancio è stato di 30 centesimi, è stato in attivo 30 centesimi per penso tutto agosto e forse agosto, no, settembre, agosto e ottobre, settembre, penso, sì, esatto, novembre, anche sì, una cosa del genere, però e poi loro avevano già specificato che sarebbe passato a 50 centesimi. Io ho letto un sacco di polemiche riguardo a questo, che diceva è aumentato, in verità loro avevano specificato fin dall'inizio che sarebbe salito, quindi il costo è di 50 centesimi ogni mezz'ora. Però naturalmente loro hanno pensato anche ai cittadini, hanno detto questo non è che, cioè, facciamo delle sorte di abbonamenti, come diceva Nardella. E quindi loro appunto hanno fatto degli abbonamenti che sono praticamente, possono essere o da 30 giorni, da 90 giorni, da 180 o da 360 giorni, va bene? E dunque loro hanno un pochino modificato i prezzi ufficiali di Mobike, perché da listino, per esempio, la corsa dei 30 minuti era 1 euro, loro l'hanno fatta scendere a 50 centesimi, e così anche per le tariffazioni dei 30, 90 e 180 giorni. Comunque costa 50 centesimi ogni mezz'ora, va bene? L'abbonamento, che si chiama Pass, è un pass per 30 giorni, ha il costo di 5 euro, quindi ragazzi è poco. Quella di 90 giorni al costo di 10 euro, quindi ancora meno, mentre quello di 180 giorni ha il costo di 50 euro. Il costo per l'utilizzo per 360 giorni, quindi per l'anno ed un anno, è l'unico che è rimasto invariato rispetto ai prezzi di listino Mobike, ed è di circa 199 euro. Quindi te con soli 199 euro riesci a insomma, hai la possibilità di utilizzare queste biciclette per tutto l'anno, per tutto l'anno. Quindi insomma, mica male. Giusto? Beh, no, mica male. No, vabbè, okay, quindi siamo tutti in attesa. Sì. Allora, però non finisce qua, perché all'inizio, dopo un po' di tempo che veniva utilizzato, appunto c'era anche a Milano è successo questa cosa, c'è stato questo fenomeno di vandalismo, o anche vandalismo, a volte neanche vandalismo, secondo me. Vabbè, comunque appunto trovavano, appunto si era detto, c'erano le bici foto in fondo al fiume, nei navigli, o parcheggiate in luoghi assurdi. Ho visto foto di biciclette attaccate agli alberi, tipo, a me mi è capitato a Firenze ogni tanto di vederle nei giardini privati. Nei giardini privati, esattamente. Sì. Quindi queste cose sono vietate, ecco, al Mobike. Dal dio del Mobike. Sì, Mobike dice espressamente, ragazzi, siate civili, per favore. E dice, tra l'altro, però forse anche questo... Vabbè, comunque dice, il grande capo di Mobike diceva che avevo letto che il problema più riscontrato in Italia è che la gente se lo portava a casa. Se lo portava a casa. Sì, ma succedono agli altri paesi, insomma, tante di queste cose. Secondo me in alcuni casi si può parlare non proprio di vandalismo, ma secondo me di goliardia. Cioè, a volte c'è una bici su un albero, non sei un vandalo, sei una persona che tendenzialmente... Sei un genio. Sei un genio. No. Va bene, comunque, per ovviare a questo problema, Mobike ha pensato a una soluzione e ha attuato un sistema a punti. Quindi te, quando ti scarichi la tua applicazione, parti con un portafoglio di 100 punti, va bene? E quei 100 punti tieniteli stretti, perché le tariffe variano a seconda del se perdi o se guadagni punti. Ci sono dei modi per guadagnarli e dei modi per perderli. Comunque la regola fondamentale, il limite fondamentale, sono gli 80 punti, va bene? Se parti da 100, se vai, quando hai un punteggio superiore agli 80 punti, i prezzi sono quelli standard, quelli abbiamo detto, quindi 50 centesimi ogni mezz'ora. Se invece il tuo punteggio scende sotto gli 80 punti, il costo della bicicletta arriva a 20 euro ogni mezz'ora. Borda. Ok, quindi però, ragazzi, noi pensiamo che siamo delle persone civili e quindi si spera, insomma, di non andarci sotto gli 80 punti. Comunque, comunque immagino si possano riacquistare facendo buone azioni. Esattamente, ci sono dei puoi prendere dei crediti. Ah. Va bene, i crediti sono di un punto, va bene? Sì. Prendi un punto se quando lo utilizzi, quindi se lo utilizzi per una corsa, oppure quando segnali un guasto di una bicicletta, cioè una bicicletta rotta, te lo segnali, loro ti accreditano un punto, oppure quando segnali una infrazione fatta da un altro mobiker. Ad esempio, se un parcheggio fatto male, se te fai la spia, ti danno un punto in più. Esattamente. Punto spia, va bene. Oppure un punto in più anche se inviti un'altra persona. Va bene? Se investi, forse è un altro discorso. Se investi, vedremo poi. È un altro discorso. Se te inviti una persona, appunto, a utilizzare Mobike, ti danno un punto. Se te invece ti registri avendo ricevuto un invito, prendi un punto in più. Debiti, okay. Ti prendi debiti. Allora, se vai a metterlo in un parcheggio privato, oppure in un parcheggio che proprio non ci sta, in fondo al fiume, oppure sulle strisce, perdi 20 punti. Quindi sei già 80, ragazzi. Sei già lì, non puoi più sbagliare. Okay. Sei già lì. Se te invece, per cavoli tuoi, vieni rincorso dalla polizia, va bene, o fermato dalla polizia, e decidi di abbandonare il tuo Mobike, abbandonare la tua bicicletta, allora loro ti tolgono ben 50 punti, va bene? Quindi te da 100 passi a 50 e sono tariffone. Se invece non la blocchi, ti scordi di bloccare la bici dopo averla usata, va bene? Però comunque poi la bici te ne ricordi e vai a riprenderla, ti tolgono solamente 15 punti, quindi sei salvo. Se le fai proprio grosse, ad esempio metterci una catena tutta tua, oppure non bloccarla e questa bici va perduta, oppure trasportarla in modo illegale, vai a zero, vai automaticamente a zero. E quindi insomma sono problemi, perché 20 euro ogni mezz'ora, capite bene che vi preclude abbastanza l'utilizzo del, certo, della bicicletta, cioè diventa veramente un impegno quasi da mutuo. Quindi loro attraverso queste regoline gestite dall'applicazione sono in grado appunto di condizionarti e di far sì che tu utilizzi la bicicletta nel modo corretto. Naturalmente sono biciclette tutte geolocalizzabili, hanno un sistema di allarme addirittura che suona se la sposti cioè se la sposti molto. Se la sposti di pochino, di un attimino, non succede niente, non suona. Se invece te la pigli in spalla e te la sposti, beh, insomma, comincia a suonare. Non è neanche così facile spostarle. Sono biciclette, appunto, come diceva Sala, hanno le ruote adatte al pavé, sono ruote piene, sono biciclette pesanti, circa una 25ina di chili. Hanno un... Però si capisce anche perché, sono veramente innovative, sono delle biciclette intanto appunto che hanno un sistema molto particolare di trasmissione dell'impulso che dai pedali appunto senza una catena passano direttamente alla ruota posteriore, hanno una forca unica e quindi le ruote non sono avvolte da entrambi i lati, va bene, dalle forche, ma ce n'è una sola. Hanno un sistema di illuminazione abbastanza innovativo, addirittura quella luce posteriore si accende con le vibrazioni, quando sente le vibrazioni si accende direttamente. Hanno un campanellino, un cestino molto comodo dove portare le cose, e sono belle, hanno dei bei colori, sono insomma ben visibili la notte, sono fighe ragazzi, cioè è una cosa fighissima veramente. Sì, ha investito molti soldi. Ha investito molti soldi per fare un prodotto attraente, un prodotto bello, un prodotto appunto che necessiti poca riparazioni. Che sia appunto un'esperienza piacevole per i cittadini e per chi lo utilizza, non solo da un punto di vista di mobilità, ma anche da un punto di vista estetico. E quindi, ragazzi, cioè. Cosa si può dire di più? Io, guarda, vi ho portato un pezzo. Tutti a prendere, cioè io vi ho portato un pezzo che io spero vi possa mettere nello stato d'animo giusto per andare a farvi una bella giratina col Mobike. Eccolo qua, Silvana Pamparini. Di fretta pedalando con orologio, le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. E spingendoti alla vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridan tutti ai corridor. Dai, ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno là per là la testa girerà e allegro canterà. Thank you. abbiamo una salita, io ti sospingerò. E stringendoti alla vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuor. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Allora, ragazzi, spero di avervi messo nella, nello stato d'animo giusto, per questa cosa. Anche questo sottofondo sotto, dice. Ah, che bellezza. Dai, che bellezza. Ragazzo. Allora, cosa dire oltre? Cosa dire oltre? Io, allora, abbiamo parlato nelle scorse puntate, appunto, sia dei problemi di Firenze, della ciclabilità, diciamo, della mancanza di infrastrutture adatte all'utilizzo delle bici. Abbiamo parlato anche di altre città europee, va bene? Tipo, ad esempio, Parigi. Abbiamo fatto l'esempio che Parigi ha avviato anni fa, oramai nel 2002, un programma di bike sharing, un progetto di bike sharing, ancora prima di fare le piste, e poi successivamente, visto il grande utilizzo delle biciclette, si è trovata nella necessità per forza di fare le piste. Quindi noi ci auguriamo che succeda anche a Firenze, naturalmente, che sia uno stimolo per l'amministrazione, che tanto sembra dedicarsi e tanto sembra investire in questo progetto. Quindi io intanto vi ho portato un esempio, appunto il Vélib, il programma di bike sharing di Parigi. Vi ho portato i costi del Vélib. Bravo. Bene, allora il Vélib non è a flusso libero, bensì ci sono gli stalli, quindi non la puoi lasciare dove vuoi, ma ci sono delle rastrelliere adatte, fatte apposta. Loro non utilizzano un'applicazione, bensì un biglietto che te compri, va bene, e poi, appunto, accoppiato, messo insieme alla carta di credito, ti permette di sbloccare le biciclette. Ti bloccano dalla carta di credito 150 euro. Ti bloccano e non ti prelevano, e 150 euro, e puoi utilizzarla per la prima mezz'ora gratis. Dopodiché le mezz'ore successive costano 1 euro la seconda mezz'ora, 2 euro la terza mezz'ora e 4 euro dalla terza mezz'ora in poi. Quindi è un prezzo che va a salire mano a mano che l'utilizzo della bicicletta si allunga. Questo lo fanno perché naturalmente è un servizio utilizzato da molti e loro lo vogliono utilizzare per le corte distanze. Quindi te ti puoi fare massimo una mezz'oretta, cioè, diciamo, gratis. Nella loro mente ti fai una mezz'oretta di bici, la lasci, e quella poi bicicletta puoi la prendere a qualcun altro. Questo proprio per favorire l'utilizzo veloce, ecco, l'utilizzo nei piccoli spostamenti. Hanno pensato anche loro a degli abbonamenti. La tariffa giornaliera è di 1,70 euro, la tariffa settimanale è di 7 euro e la tariffa annuale, pensate un po', è di 29 euro con l'utilizzo gratuito di ogni mezz'ora, se te poi sfori, c'hai le cose aggiuntive ed hai prezzo aggiuntivo, 39 euro invece quello annuale, sempre con un utilizzo però di 45 minuti. I primi 45, se te fai l'abbonamento di un anno a 39 euro, puoi utilizzare la bicicletta per tratte di 45 minuti senza costi aggiuntivi. Poi ci sono degli sconti per i ragazzi sotto i 26 anni. Quindi loro, appunto, attraverso questo metodo cercano di stimolare alla viabilità ciclabile, a utilizzare la bicicletta per le piccole distanze. Andiamo a vederle, andiamo a raffrontarle con quella di Firenze, perché quella di Firenze le tariffe di Firenze sono abbastanza diverse, perché invece vediamo che sono molto basse per l'utilizzo minuto, va bene? Nel senso che per mezz'ora costa 50 centesimi, ma comunque per 30 giorni costa 5 euro, mentre a Parigi per 7 giorni 7 euro, quindi c'è una grossa differenza. Ma la differenza più grossa è quella nell'anno, perché se te con il Vélib per il Vélib con soli 39 euro puoi utilizzarlo per tutto l'anno, con il Mobike costa 199 euro 200. Costa 200 euro, quindi già questa è una buona differenza. Ci fa capire che qual è il target. Ci fa capire qual è, sì, sì, ci fa capire dove punta l'amministrazione. Cioè, quindi l'amministrazione parigina punta a agevolare molto gli abitanti che utilizzano per 365 giorni l'anno la bicicletta negli spostamenti brevi. Per spostamenti brevi, tra l'altro. Per spostamenti brevi. Magari appunto può aiutare anche nell'evitare gli altri mezzi. Esattamente. A Firenze invece vediamo appunto le tariffe che costano meno sono quelle da 30 giorni, da 90 giorni, da 180 giorni. Ma chi è che utilizza la bicicletta per 90 giorni a Firenze e basta? Io per esempio la bici la uso tutti i giorni, tutto l'anno, cioè non... Americano. Inoltre c'è 200 euro, io ci compro 4 biciclette credo con 200 euro. Sì, all'incirca. Quindi... pare che questa cosa, diciamo, sia più orientata verso un determinato utilizzo della bicicletta da parte di persone che stanno per poco tempo nella città e che non hanno necessità di fare spostamenti brevi, ma bensì magari la puoi anche utilizzare tutti i giorni per farti le tue giratine. Però appunto per chi la utilizza giornalmente per tutto l'anno, per gli spostamenti della vita, comincia a essere costosetto, 200 euro l'anno, insomma, non si parla di proprio di noccioline. Quindi ci sorge naturale, va bene, ma al comune, cioè, perché conviene fare questa cosa? Al comune di Firenze, nello specifico, il comune di Parigi, abbiamo capito che ha altre politiche. Il comune di Firenze perché utilizza queste politiche? Allora, intanto perché ha scelto questo servizio? È un servizio dove il comune non ha costi, perché le biciclette e l'applicazione e il tutto è nelle mani di Mobike. Non ha bisogno di un controllo, perché abbiamo visto anche la parte del controllo, di come parcheggiarle, insomma... è tutta delegato all'applicazione che ha messo tutte queste multe e questa tariffazione. Inoltre il comune ci guadagna, ad esempio riguardo a Firenze non ho trovato dati, ma a Milano l'azienda paga 30 euro per ogni bicicletta l'anno che c'è nel comune di Milano. Quindi insomma sono, quanto diceva Sala, 12.000 biciclette, tipo sono già 4.000 più 12.000, esatto, 16.000. quindi insomma comincia a essere un'entrata per il comune. Questo è, quindi il comune, diciamo, si toglie questa preoccupazione dell'organizzare questo servizio, dice all'azienda Mobike, nel caso di Firenze, nel caso di Milano sono due, Mobike e Ofo, e dice: va bene, pensateci voi ragazzi, a noi ci date questo tot di soldini, ci bastano, e noi con questo ci facciamo quello che ci pare. Però il punto è: ma perché invece conviene alle aziende, a Mobike nello specifico di Firenze, anche se poi vedremo che Firenze ospiterà a breve anche un'altra azienda che si chiama Ofo Bike. Sempre Ofo, quella che è di Milano, quella gialla. Quella a Milano che ha le biciclette gialle. E, perché conviene a queste aziende? Intanto bisogna definire che cosa sono queste aziende, che cos'è Mobike e Ofo. Sono nate all'incirca nello stesso periodo, quindi è stata sono due start-up. Quindi sono dei progetti nati nel 2015-2016, e nel caso di Mobike è un'invenzione cinese, una startup cinese che ha ricevuto dei grossi capitali per iniziare questa attività. In particolare Mobike ha ricevuto il capitale iniziale, circa 215 milioni, da Tencent, che è praticamente l'azienda che gestisce il WhatsApp cinese, per poi appunto ricevere una e anche quell'altra, bravo. Ricevere una grossa somma che non si sa quanto, però pare che sia molto consistente, dalla Foxconn. Voi probabilmente sapete meglio di me cos'è la Foxconn. Sì, la Foxconn è una casa produttrice di componenti elettronici. Ok. Spesso chip, insomma parte hardware dei computer e dei telefoni. Esatto, certo, una bella commissione. Aziende informatiche, quindi. Però appunto io appunto porrei l'attenzione sulla Tencent che appunto gestisce il WhatsApp cinese, no? Una chat fondamentalmente. Allora, per quanto riguarda Ofobike, che è la compagnia che già a Milano è presente e che arriverà a breve a Firenze, invece sono stati finanziati inizialmente da Xiaomi, va bene? Che è la... Xiaomi! Xiaomi Corporation, eccola. Che è chi, quella, l'azienda che gestisce l'Uber cinese. Uber in Cina, esatto. Nonché, peraltro, azienda che... sta diventando la nuova Huawei. La nuova Huawei, per, pensate. Per i telefoni. E poi è stata acquistata da Didi Xuxing, insomma un'altra azienda, un'altra grossa azienda di commercio elettronico in cinese. Però appunto Forbes, che è una testata economica di economia americana, sostiene che dietro a Ofobike c'è Alibaba, esatto. Alibaba, che è praticamente il concorrente di Amazon in Cina. È l'Amazon cinese, quindi l'azienda di commercio leader assoluta all'e-commerce mondiale, in realtà, cioè l'azienda più potente, forse una delle aziende, delle due o tre aziende più potenti del mondo. E questo appunto loro dicono, Forbes dice che dietro a Ofobike c'è Alibaba attraverso la ANT Financial, va bene, che è una società legata ad Alibaba. E si parla appunto di, fondamentalmente, di commercio elettronico. Ecco, è il commercio elettronico, appunto, quando Nardella dice che è una novità in Italia e nel continente, ha ragione. Lui non parla delle biciclette, del bike sharing, ma parla di questa cosa qua. È una novità che le biciclette passino da essere un mezzo di trasporto ad essere un mezzo, ad essere un commercio elettronico di fatto, no? Quindi sì, ora io le chiamerei più che aziende di commercio elettronico, perché si occupano veramente un po' di tutto, cioè sono delle holding che hanno, sono sicuramente i giganti della tecnologia tendenzialmente cinese. Esatto. Allora, ora naturalmente noi io tutte queste cose le ho trovate, intanto vi dico dove le ho trovate, così magari ve le potete andare a cercare. Sicuramente direi che poi nel podcast riporteremo anche i vari link. Le fonti sono: una è un articolo del Sole 24 Ore uscito il 21 ottobre 2017, scritto da Magnani, e un altro invece è un articolo di Business Insider uscito il 6 ottobre 2017 del giornalista Del Prete. Non esistono molte notizie, perché è un'innovazione, ragazzi, è una cosa assolutamente nuovissima. Comunque facciamoci due calcoli semplicissimi. Allora, i costi che hanno queste aziende, va bene? Le biciclette, appunto, abbiamo visto Mobike, che sono delle biciclette molto molto fighe, hanno un costo unitario di produzione di circa 440 euro, mentre Ofobike, che sono un po' più semplici e un po' meno fighe, ha un costo di circa 200 euro a bicicletta. Quindi sono costose, di fabbricazione, cioè, stiamo parlando certo, costo se le fai unitario in grande scala il prezzo diminuisce in generale. Questo è il prezzo unitario della produzione. Questo è il prezzo unitario della produzione. Ah ok, quindi sono molto costose. Poi c'è da considerare ipertecnologiche, c'è una grande ricerca scientifica proprio dietro ai materiali, ai meccanismi, a tutto quello che gira intorno alle applicazioni, e quindi all'utilizzo dei codici a barre, insomma, hanno inventato, la Mobike ha inventato questo sistema di sbloccaggio, di fatto è la prima a utilizzarlo. Poi naturalmente ci sono tutti i costi della logistica, perché questi sistemi a flusso libero hanno dei problemi, nel senso che spesso succede che si trovano, se servono per la mobilità breve, si trovano poi dei grossi agglomerati di biciclette in un punto, perché magari, che ne so, tutti dalla stazione che scendono dal treno prendono la bicicletta alla stazione, la portano, che è nel centro di Firenze, la portano nelle aree limitrofe, a un certo punto ci sarà qualcuno che dovrà riportarla indietro, se no poi chi scende dalla stazione rischia di rimanere senza bici. Hanno anche infatti inventato un sistema di prenotazione, quindi te puoi metterti in contatto con una persona che viene vicino a te e praticamente te la porta, fra virgolette. Ci sono le riparazioni, perché comunque avete visto che vi abbiamo detto che si vedono questi atti di vandalismo, cioè nel fiume, insomma, sono una bicicletta che costa 440 euro, insomma, ha dei costi anche di riparazione notevoli. E poi, cioè, ragazzi, tipo attualmente Mobike e Ofo hanno in circolazione 17 milioni di biciclette. per la maggior parte in Cina, soprattutto nelle in quattro enormi metropoli cinesi, ma per esempio Ofo prevede di arrivare a 20 milioni da solo a breve di biciclette, quindi cioè, investono veramente, veramente, veramente tanto. E come ci guadagnano? Come ci guadagnano, visto che i costi sono così tanti e mezz'ora costa 50 centesimi? Il Sole 24 Ore si è preso la briga di andarlo a chiedere ad Alberto Felici, che è praticamente un amministratore di Evionet, che è il distributore della Mobike in Italia, e lui sostiene che appunto i grossi vantaggi arrivano dalle commissioni, dalle corse e dal deposito, va bene, che sono questi fee, li chiamano loro. Non hanno pubblicità, essendo a flusso libero, quindi nel caso di Velib e dei sistemi con gli stalli, negli stalli c'è la pubblicità, ecco, e quindi da quello qualcosa. Esatto, ci riprendevano qualcosa. Lì sì, però la pubblicità, o sbaglio? No, Milano è a flusso libero, uguale. Si sta facendo. È sempre flusso libero, sì. Allora, e in tutto questo appunto noi ci domandiamo, ma e allora come fanno i costi sono enormi per le aziende, il costo è assolutamente enorme, per i cittadini, per diciamo i consumatori invece il costo è estremamente ridotto, ma e i soldi da dove arrivano? Quanto o meno. Diccelo via. Ah, no, allora, o diccelo. Posso provare a porre la domanda in un'altra. Prego. Sapendo già poi la risposta. Prego. Com'è possibile che delle aziende che evidentemente non stanno facendo grandi soldi siano così interessanti per dei giganti della tecnologia? Esattamente. Bravo. Evidentemente c'è un fattore che è poco visibile agli occhi del consumatore, ma che è molto visibile, anzi è la priorità evidentemente per queste grandi aziende. Noi ripensando, e poi ci sono, insomma, sta cominciando a venire fuori, però appunto pare che come succede in tanti altri casi di questo tipo di commercio, il grosso delle entrate arriva dalla vendita dei dati, estrapolati dalle applicazioni. Voi ragazzi, e qui si viene, ce l'hai detto, l'ho detto, però sono pronto. Appunto, cioè, Nardella dice: questa è un'innovazione, è vero, perché effettivamente un viaggio in bicicletta ti riesce a dare delle informazioni molto molto precise, cioè loro ti mandano il riepilogo di ogni tuo viaggio, quindi di fatto sanno, di fronte a tutte le vetrine, sanno il tragitto, esatto, con che velocità. E quindi il livello di attenzione che puoi avere anche sulle cose che ti circondano. Esattamente, riescono a raccogliere dati estremamente precisi sulla nostra vita quotidiana, di fatto. E questo, che se ne fanno di questi dati? Voi lo sapete meglio di me, certo. Probabilmente. Infatti Alibaba, fra l'altro, è tutto bello impiegato, tutta quella cosa nuova che sta venendo fuori in Cina del controllo sul ranking dei cittadini. Ah, cioè te sei un bravo cittadino, ti do dei punti da spendere su Alibaba, ti do delle facilitazioni economiche, che è una roba che sta il top praticamente, sta diventando effettiva. Sì, sì, è una sperimentazione che c'è già, okay. E che il governo cinese ha dichiarato che verrà ufficializzata e quindi diventerà obbligatoria nel 2020, quindi tra due anni, penso. Tre anni. Comunque, ragazzi, questo è il nostro amico della Evionet, Alberto Felici, smentisce naturalmente questa cosa. Dice: no, ma stiamo scherzando, cioè, ma vendere questi dati è illegale. Bene, non si può fare. Lui dice: noi vendiamo servizi alle aziende con la vendita di macrodati dei clienti. Ragazzi. Perché i dati singoli penso che sia illegale, ma i pacchetti di dati penso che sia i pacchetti legale. Di dati, questo è un discorso che si può allargare. Non solo, cioè, magari non gli puoi vendere i dati, però gli puoi dire: guarda, te la pubblicità è conveniente e tu la metta lì. Ah, ma certo. Questo succede un po', si può allargare questo discorso, giusto? Perché i social network all'incirca funzionano. Ah, sì. Infatti, è interessante che se comunque sia di big data, ormai si parla da qualche anno, il grosso limite dei big data è che lavoravano sul virtuale di ogni persona. In questo caso i dati vengono prendati sulle abitudini reali, certo. Forse come quando i salvatempo, no, della Coop e dell'Esselunga, che ti sei... la coppa e la S-Lunga sanno perfettamente te cosa prende per spesa. Certo. Cioè, e quindi riescono a proporti, riescono a proporti delle offerte mirate sul tuo target, sui tuoi consumi. E quindi immagino che, diciamo, io immaginiamo che Mobike, che raccoglie tutta una serie di dati del mio tragitto da casa mia fino a Piazza del Duomo, si può presumere che a un certo punto io venga stimolato da pubblicità da pubblicità fondamentalmente all'acquisto di un certo bene che loro hanno registrato, insomma hanno capito che io sono interessato a determinati tipi di cose e in seguito allo spionaggio del mio viaggio, e quindi riusciranno a essere molto più precisi con gli annunci pubblicitari, e quindi stimolano il mercato, ecco. Stimolano a compravendita. Ma immagino, ecco, che intreccino dati sul virtuale e sul reale, certo, che prendono attraverso Mobike, quindi si va verso una completezza proprio, certo, totale. Certo, certo, certo. Quindi cosa si può dire, nel senso, quindi dall'essere contenti siamo diventati scontenti, dall'essere sì entusiasti, questa cosa un pochino a me sinceramente preoccupa. Io sono molto preoccupato, non ho neanche lo smartphone, pensate, io non posso prendere il Mobike, ma io non ho lo smartphone per la paura di questo, fondamentalmente per la paura di regalare i miei dati a persone che ci vogliono lucrare. E con Mobike tendenzialmente io sono portato a pensare che succede in modo molto molto preciso e molto molto capillare. Però ragazzi, magari no. Fatto sta che io mi sono anche domandato, ma Firenze, cioè la città di Firenze, l'amministrazione di Firenze, come si pone nei confronti di questa cosa? Questo me l'ero chiesto appunto già nell'entusiasmo della notizia dell'arrivo del bike sharing. E quindi ragionandoci sopra ecco, raccolgo queste informazioni, va bene? Firenze ha creato un servizio molto bello, va bene? Molto attraente, perché è una cosa all'avanguardia, è una cosa che non esiste da nessuna parte, va bene? Non tocca le biciclette l'amministrazione di Firenze, non sono di sua pertinenza, i vigili non multano neanche le biciclette messe in posti. Ci pensa già Mobike? Ci pensa già Mobike. È un servizio tendenzialmente indirizzato per i turisti, e quindi io quando giro per Firenze e la vedo piena di turisti, ma la vedo veramente piena di turisti, mi viene da pensare che tutto questo sistema calza esattamente sul modello di città che sta preparando Nardella. Nella conferenza stampa si sente parlare di smart city, va bene, o addirittura di platform city, e città piattaforma per cosa, di fatto? Per gli investitori, va bene, grandi investitori esterni come può essere Mobike. Quindi Mobike, che è stata attratta, diciamo, dall'immagine che l'amministrazione è riuscita a dare alla nostra città, è arrivata con questo progetto che è molto bello, è molto attraente, di modo che possa attirare naturalmente ancora più turisti, visto che il servizio è mirato quasi esclusivamente ai turisti. E i turisti che cosa portano, signori? Altri investitori, dinero e altri investitori. Quindi continuerà questo meccanismo a attrarre investitori, che attrarrà turisti, che attrarrà investitori, che attrarrà turisti, che attrarrà investitori, prego. Che però non so quanto attragga voti, quindi secondo me a un certo punto Nardella deve anche stare un attimo attento, e quando ci avvicineremo alle elezioni comunali, secondo me noteremo anche qualcosa di diverso. Esatto, signori, infatti non è mica scemo Nardella, ragazzi, è una persona che la sa lunga. Immediatamente, anzi contemporaneamente all'inaugurazione di Mobike, cosa ha detto? Intanto l'abbiamo sentito, ringrazio tutte le società sportive del ciclismo, Gastone Nencini, Gino Bartali e via discorrendo, va bene? Però lui a seguito della presentazione ha detto: ragazzi, noi ci teniamo ai fiorentini, metteremo qualche rastrellera in più, faremo 2,9 2,9 chilometri di piste ciclabili in più. Cercheremo di non metterci nel mezzo nessun cassonetto, nessuna edicola, oppure di non farla insieme ai pedoni, oppure di non farla interrompere a un certo punto. Ma questo perché ora poi il punto non è l'ha detto questo, cioè se fosse davvero no, questo non l'ha detto, questo lo dico io. Allora, però c'è una cosa preoccupante. Prego. No, dico che se fosse davvero indirizzata principalmente ai cittadini, le infrastrutture sarebbero la prima cosa da costruire prima di mettere 4.000 biciclette. Praticamente sì. C'è un altro fatto che è molto grave, signori. Io ho avuto difficoltà a trovare tutte queste informazioni, perché non esistono documenti ufficiali che dimostrino gli accordi presi tra il comune e queste aziende. Non esistono, non c'è assolutamente niente. Niente trasparenza. Di niente. Grande trasparenza. Sì. Grande trasparenza. Questo erano dei temi talmente ampia di tutta la loro spazio inchiostro di venerdì scorso. Esattamente, sì, esatto. C'è stato un incontro di spazio inchiostro che trattava di questo tema della città vetrina sotto molti punti di vista. Io spero con questa cosa qua di aver portato un punto di vista particolare, ecco, innovativo. Facciamo così. Facciamo i nardelloni. Signori, grazie. Non so più cosa dirvi, non so più cosa dirvi. Vi ho detto un sacco di cose. Io mi piacerebbe darvi una soluzione a tutto questo, ma non ve la do. Lascerò che sia Alessio Lega a darvela. Ode al moto perpetuo. Io canto l'equilibrio del moto perpetuo, io canto la vita che si muove silente, io sussurro nell'aria il circolo del nuovo, io mi avvio per strada, seguo tutta la gente, e fra tutta la gente porto il genio fecondo dell'ingegneria che sconfigge la fretta, senza fumo né strepiti che inquinino il mondo, lo determina, signori, alla mia bicicletta, lo determina al fanale, al manubrio, alla ruota, al fanale di dietro, alla dinamo avanti, al campanellino, alla sua unica nota, alla voce argentina che sfida la tempi, state attenti, che questo è il vero progresso, ed è un nesso che lega una tecnologia che senza ridurti il mondo ad un cesso, ti moltiplica la tua stessa energia. La rivoluzione, compagni, arriverà in bicicletta, suola e pedale, questo è il vero ideale. Senza fare rumore boicotta il potere, senza fare rumore calpesta il motore, occhio al ginocchio, è lo stinco che stendo. La rivoluzione sta già pedalando. Il vibrante mormorio della ruota dentata, dente a dente si insinua, dente a dente in catena. La catena trattiene l'energia liberata e la libera, veloce, precisa e serena. E la bicicletta, metaforicamente, simboleggia una vita che non sia fuori al vento, ma passione, pensiero, sia corpo, sia mente, in cui si resta in piedi finché c'è movimento. Circolare a tutti i movimentisti, lettera aperta a chi vive lottando ciclicamente, internazionalisti, unitevi in ogni parte del mondo. Non avrete da perdere le vostre catene, ma da stenderle fra le due ruote in tensione, libertari, anarcociclisti conviene, arrivarci a pedali alla rivoluzione. Una rivoluzione, compagni, arriverà in bicicletta, la salita ora è tesa, verrà la discesa. Senza fare rumore, boicotta il motore, senza fare rumore, calpesta il potere, occhio al ginocchio. E lo stinco che stendo, la rivoluzione sta già pedalando. E rieccoci qua, dopo le luci e ombre sul mobike. Scusa caro, mi sono capottato e quindi ora... Rialzati. Tutte le volte che cadiamo ci rialziamo. Ok. Allora, molto interessante. Molto. Anche perché eravamo partiti tutti, ma che bella innovazione, sentendo le istituzioni, e poi sveliamo gli scheletri nell'armadio. No, è il nostro sport preferito, devo dire. No, più che altro io penso che più che svelarlo noi, nel senso sia anche un invito a un lavoro collettivo che per esempio viene iniziato a fare in diversi spazi della città. Esattamente. E che e che porta appunto a non cercare di approfondire, visto che la trasparenza da parte delle istituzioni non c'è, inchieste di grande livello non se ne vedono, c'è da fare un lavoro anche dal basso probabilmente per cercare di capirle certe dinamiche e cercare di portarle fuori con gli strumenti che abbiamo. Assolutamente, no, assolutamente, è l'invito che facciamo tutte le volte che affrontiamo tendenzialmente in modo approfondito in questo modo, o come è successo in passato anche un po' meno in profondità, certo. L'invito è approfondire sempre, non il vero cittadino del mondo si informa su qualsiasi cosa, attenzione, non sei d'accordo. Non so cosa voglia dire cittadino del mondo, ma sì, ok. Interessante. Beh. Così, a caso. Va bene, senti, visto che il tempo passa, mandiamo il nostro amico Nickname. No, ha detto non più name. Infatti non mi ricordo più come vuole essere chiamato. A fare i suoi, lo abbracciamo fortissimo perché ci manca e ci ascolta. Fra noi e noi lo chiameremo Campanellino. Va bene. E chissà cosa ci porterà il suo cuore a pezzi che da lontano racconta la musica. Wubububat! Tiende un cuore a pezzi, ma che già fa? C'è molto da imparare, lasciati baciare, qualche passo indietro poi ti devi avvicinare, lasciati baciare con le kiss, lasciati baciare con le kiss. Bene, ciao ragazzoni, viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat, eccoci di nuovo a Du Piezze Core o Core a Piezze praticamente. Questi due pezzi di cuore che vi raccontiamo oggi sono due pezzi di cuore molto alti e con due gambe incredibili e sono appunto Alice ed Ellen Kessler. Sicuramente le conoscete, sono due grandi dee della TV e della musica italiana degli anni 60, degli anni 70, grandiose. Sono originarie tedesche della Germania dell'Est, nascono in un paesino, poi si spostano subito all'età di 6-7 anni, iniziano a studiare danza classica, piacciono subito molto, iniziano a esibirsi ai teatri di Düsseldorf e di Lipsia, fino a che poi non riescono ad andare in America e iniziano e fanno appunto gran carriera, non esagerata, però comunque piacciono tanto. La grande svolta della loro vita sarà chiaramente il 16 gennaio del 1961, quando a 25 anni si trasferiscono in Italia. Subito notate, partecipano a un programma che si chiama Giardino d'Inverno. Adesso mi soffermo un attimo, questo programma era un programma scritto da Antonello Falqui. Voi lo sapete chi è Antonello Falqui? Era un super regista, un grande scrittore importantissimo, un grande scrittore di programmi televisivi nell'Italia degli anni 60. È quello che si è inventato il musichiere, che praticamente sarebbe la versione dei tempi dell'attuale tristissima Sarabanda, una specie di programma quiz musicale. Antonello Falqui è stato anche l'inventore, insieme a Guido Sacerdote, di uno dei programmi migliori della storia della televisione italiana, che è Studio 1. Praticamente è un po' l'archetipo, il grande tipo di varietà della TV italiana in bianco e nero degli anni 60. Pazzesco, perché era stato pensato in una maniera totalmente scenografia, con gli oggetti di scena in scena, quindi cioè con gli oggetti appunto le macchine da ripresa, i microfoni, gli attrezzisti, le impalcature, tutto quanto in scena, compresi i cambi di scena. Il primo anno come presentatrice chiamarono Mina, quindi meraviglioso, un programma con questa presentatrice femminile che poi si faceva accompagnare di volta in volta, di puntata in puntata, da uomini diversi, e si parla di roba tipo Gassman, Tognazzi, De Sica, Sordi, varietà. Voi pensate, il primo giorno della prima puntata di questo programma, che poi ha una vicenda produttiva molto travagliata, fu fatto di nascosto, costrinsero i produttori Rai a pagarla con l'inganno e poi riuscirono a mandare in onda appunto questa prima puntata anche anticipatamente, il programma cominciava proprio con queste due figliole che cantavano questa canzoncina qui. Hello boys, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui, è arrivato già da un pa, già da un pa. Beh, immaginate, cioè, ai tempi, negli anni 60, la televisione ce l'avevano in pochissimi. I vostri genitori ve l'avranno raccontato, si andava a casa degli altri o si andava, che ne so, nel primo baretto a vedere la TV la sera, e Studio 1 è stato uno dei programmi più seguiti. La prima puntata, tutti quanti ammassati in queste sale da bar a guardare, e compaiono queste femminone che, come le definì Flaiano, erano due gambe con una testa sola, avevano due gambe chilometriche, tanto che pensate che la Rai decise anche di censurare questa loro bellezza troppo particolare, troppo amata dagli italiani, e mandò una sorta di censore sotto copertura negli studi di Via Teulada, dove praticamente c'era lo studio 1, e il cast narra che appunto ci fosse questo che chiamavano l'uomo delle mutande, che andava in giro, leggeva i copioni, entrava nei camerini e costringeva le donne con queste gambone, soprattutto queste due gemelle Kessler, a indossare pesanti calze di lana perché non si poteva vedere la pelle. Cioè, diciamo, va bene, si vedono le gambe, però non facciamo vedere di cosa sono fatte le gambe, almeno. Fatto sta che queste due gambe gli portarono tanta fortuna, girarono tanti film, parteciparono tante volte in TV, divennero insomma delle icone, e si poterono permettere anche di registrare diversi CD perché cantavano discretamente bene. Si presentarono infatti a Canzonissima nel 69, la mega canzone che ci ascoltiamo adesso è proprio quella che loro portarono. Tra l'altro, guarda caso, quell'anno a Canzonissima il regista era di nuovo Antonello Falqui, che le rivolle nuovamente, si era affezionato evidentemente a Antonellone. Insomma, ci sentiamo adesso, quelli belli come noi. Oh raga, mi raccomando, imparatelo alla prima volta il ritornello, e la seconda volta dovete cominciarlo a cantare, se no lo sentite dalla canzone qual è la conseguenza, insomma. Diciamoci la verità, per far cantare tutti la canzone c'è, e questo ritornello che non vuol dire niente, però il segreto c'è. Chi non la canta subito, chi non la canta subito, in un momento a lei diventa. C'è quelli belli come noi, e sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. Cantarla ci sta bene, ma proprio bene bene. Chi non la sa cantare resta solo, e solo che cosa fa? Più brutto ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. E quasi tutti quanti diventano cantanti. E tu che sei stonato come un'oca che fa qua qua, tu non dovresti cantare qui, e invece sì. Qualcuno non ci crederà che si diventa belli cantando come noi. Se non sei bello come vuoi, tentare che ti costa, prova un po' a cantare. Diventerai bellissimo, diventerai bellissimo. Ma se non canti tu, rimani brutto. E invece quelli belli come noi, ne sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. fa, più brutta ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla allegramente vanno avanti, a furia di cantare. Forse per quello, sì. È una sciocca. Se per quello che siamo in radio, non c'è più nessuno. Adesso questi non ce la fanno più. E questa musica finirà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, senza voce ma cantando vanno avanti. Che sono tanti, che sono tanti, che sono tanti. E avanti. Quelli belli come noi, sono tanti, tutti insieme a cantare come noi, sono avanti, tanti. Bene, avanti. Bravi ragazzi, ci ho messo in difficoltà, caro. Riconoscete la canzone, avete pronti. Pochissimo tempo. Su che la conoscete tutti. Dai. Ah, coso? Chissà. Veloci, manca poco. È il giro di basso. Chi ne indovina? Sappiamo. Ok. Bene, insomma, si è parlato delle due stangone che hanno portato le gambe in televisione. Parliamo adesso di un'altra meravigliosa diva dea della TV italiana. Anche lei molto scandalosa ai tempi. Cioè Raffaella Maria Roberta Pelloni. Raffaella Carrà si chiamava Maria Roberta Pelloni. Scoppia il cuore. Bene, insomma, Raffaella nasce a Rimini, a Bellaria, in provincia di Rimini, genitori divorziati subito dopo il matrimonio. Anche lei a 8 anni si trasferisce altrove, in questo caso a Roma, inizia a studiare danza, poi si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia e diventa attrice, insomma, si diploma lì e inizia la sua carriera da attrice cinematografica. Fa una serie di filmetti vari finché nel 62 non viene portata in televisione come Valletta, quindi come soubrette. Valletta, accompagnatrice di Lelio Luttazzi, per il programma che si chiama Il Paroliere, questo sconosciuto. Poi ne farà diversi di film, di comparsate in film, diciamo. Compare nei Compagni di Monicelli e addirittura nel film Il Colonnello Von Ryan, girato a Hollywood, a fianco di Frank Sinatra. Pensate che mega figona che era Raffaellona nazionale, insomma. Alla metà degli anni 60, questo regista, Dante Guardamagna, che è un nome, un programma, le consiglia, insomma, di cambiare il cognome da Pelloni a Carrà, perché lui era molto appassionato di pittura e diceva Raffaella, mi sa di Raffaello Sanzio, allora mettiamogli il cognome di un altro pittore e gli mette quello di Carlo Carrà, che era un futurista, poi abbastanza bravo, poi più indirizzato verso, diciamo, la metafisica de chirichiana. Insomma, Raffaella piace tantissimo perché è super grintosa e anche lei negli anni 70 capisce che la sua carriera da attrice, insomma, non le darà mai quello che potrebbe darle la carriera da soubrette televisiva, e quindi lascia definitivamente le ambizioni di teatro, insomma, e si dedica alla televisione anima e core. Nel 70 infatti stesso dirige Canzonissima e canta la sigla di Canzonissima, è quella "Ma che musica maestro", e nel 71, come di nuovo a Canzonissima, così come le Kessler erano entrate con il Dada Umpa, lei inventa il Tuca Tuca, musica prego. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, tanto, tanto, sembra incredibile. incredibile, ma sono fatta di te. Mi piaci. Ma quello che dice dopo lo conoscete già. Raffaella diventa la punta di diamante dell'intrattenimento in prima serata della Rai. Insomma, le danno tanti programmi da gestire da sola come padrona di casa. Piace molto questo epiteto per le presentatrici, appunto, dei programmi in prima serata. Nel 78 fa Ma che sera, poi una serie infinita di altri programmi per toccare dei punti salienti della sua carriera. Nel 91 Fantastico 12, programma appunto su Rai 1, Benigni che la ravana tutta, insomma, ce lo ricordiamo. Nel 95 il suo programma, che poi adesso è un po' il titolo che le associamo di più, che è quello Caramba che sorpresa, che poi dura fino al 2009 questo programma, e si trasforma in Caramba che fortuna, perché era anche per la Lotteria Italia, quindi hanno messo Che fortuna invece che sorpresa. Ci sentiamo adesso uno dei pezzi che mi piacciono di più di lei, che si chiama Rumore, del 74, anche qui presentato a Canzonissima, che lei dirigeva in quegli anni. Rumore, Raffaella Carrà, dai, e para para para para para para para para para para para para, tutti a ballare in regia, dai, così, yeah, i tavoli. Insomma, oggi mi sento un po' un DJ, quindi vi lascio con quest'ultimo pezzone e vi saluto alla prossima puntata. Spero vi sia piaciuta la storia di Raffaellona, attrice delle Grandi Gemellone, tutte e tre ancora tutte molto vive e pimpantissime. Viva fuoco alle polveri! viva Radio Wombat, ci vediamo la prossima settimana, ultimi secondi di danza per tutti noi, un grande bacio e viva mia, mia, mia, mia. E Raffaella canta a casa mia. No, no, doveva succedere il mio cuore. Che fuoco basso. No, lascialo, ormai lascialo. Sei un delinquente. E Raffaella canta a casa mia. E Raffaella è mia, mia, mia. E tutto il vicinato. Ascolta il repertorio. Che canta solo. Tiende. Ugora pezze. Ma che già fa? È per restare in tema. Abbiamo questa componente tamarra oggi. Sì. Devo dire che mi ha affogato il pezzo. Sì, sì, certo. Non mi paragonare Tiziano Ferro a Ivan Allen. Che no, ti scuzzo. No, sì, fai, mi permetterei mai. Non mi permetterei mai. Che casino hai fatto, guarda. Ah, boia. Ho fatto un casino al computer, cari sì, ascoltatori. Sì. Beh. No? Che c'è ora? Sì. Boh, forse te. Torniamo al grande libro sparito settimana scorsa. Sì. Me lo la grande saga di. Visto che anche partendo da. Parlando di biciclette, siamo arrivati a quello che, dove insomma si riconduce sempre tutto oggi, in qualche modo digitale, a, così. Tra l'altro oggi è un grande anniversario. Già, vai. 13 novembre del 1990, creazione della prima pagina del World Wide Web. Borda. Opera di Tim Berners-Lee, uno dei due diciamo che ha creato il tutto fondamentalmente, che ci ha dato cioè, ha regalato tecnicamente internet a Ok. Ma cos'era, una Hello World? Ma Scalzone non risponde. Ah, mi sono tolto il microfono. E pronto? Te l'abbiamo dato nuovo, che sei più comodo così. Sì, sì, buono, buono. L'altro giorno okay, eri a 90 ma gradi. Ma cos'è un Hello World, la prima pagina del web? No, è tipo la spiegazione del progetto www. Interno al CERN, inizialmente era tipo dal 90 fino al 90, 91 è stato a uso della comunità scientifica fondamentalmente, cioè era una struttura ipertestuale, cioè un software che permetteva di leggere un'infrastruttura ipertestuale, però usando qualsiasi tipo di macchina, quindi avendo l'idea di fare uno standard internazionale che fa sì che la prima pagina fatta nel 91 sia 27 anni dopo perfettamente leggibile e non ci sia nessun problema di perdita di informazione. E fra l'altro è figo perché è nata, ne erano già state fatte altre, provate a fare altre, che però sono fallite tutte dal momento che erano cose già privatizzate, già chiuse per sé, quindi dovevi pagare per entrare nella rete, tutte queste cose qua, che sono sparite nel niente. Cioè, so anche i nomi, ma mai sentiti, Prodigy, Genie, CompuServer. Mai sentite, tipo, cioè roba che è sparita nel giro di tipo. E cosa ha fatto? Cioè, è una cosa fondamentale all'interno dell'Ethic Hacker, che era il libro che avevo letto l'altra volta. Ma si sente? Cioè. Sì, sì, sì. L'hai letto l'altra volta? L'altra volta ho letto, sì. L'introduzione. Ah, non c'era. L'introduzione all'Ethic Hacker e lo spirito dell'età dell'informazione, che okay. È un libro di Pekka Immanen, un po' datato ormai, del 98. Però è veramente sul pezzo. Che hanno rieditato, però avevi detto di ristampato. Sì, è stato ristampato, cioè si trova abbastanza facilmente. Ok. E oggi prologo, scritto da Linus Torvald, che è il creatore di Linux. Per la New Linux, che Linux, è tipo il motore, Linux. Sì, motore. Il sistema operativo software, libero. Open source. Esatto, e se la batte con tutti quelli proprietari, Windows, Mac e tutto il resto. E se la vince, sottostà, per quanto fra l'altro, riguarda. Alla base di quelli proprietari, cioè sono venuti fuori da questo praticamente. Beh sì. Vabbè, cominciamo, se no ci mettiamo un po' troppo. Sono due pagine. Bravo. Spero di essere rapido e veloce e capibile. No, fai capibile. Chiaro. Meglio capibile. Titolo. Prologo. Titolo del prologo. Come agiscono gli hacker? Ovvero la legge di Linus. Cioè Linus scrive la legge di Linus, va bene. Ho incontrato Pekka e Manuel per la prima volta all'University of California a Berkeley, nella Bay Area, in occasione di un convegno di mezza giornata sulle sfide lanciate dalla Network Society. vi partecipavano le teste d'uovo delle scienze sociali per discutere di tecnologia e società. E poi c'ero io, a rappresentare la parte tecnologica. Io non sono uno che si intimidisce con facilità, ma quella circostanza non sembrava particolarmente adatta a mettermi a mio agio. Come avrebbero potuto collimare le mie opinioni con quelle di un gruppo di sociologi che discutevano di tecnologia? Però pensai, ehi, se fanno parlare di tecnologia i sociologi, un tecnologo può benissimo discutere di sociologia. Ma al che vada, non mi inviteranno più, cosa ho da perdere? Finisco sempre di elaborare i miei discorsi il giorno prima e ancora una volta mi ero ritrovato a cercare affannosamente un aggancio per il giorno successivo. Di solito, quando si trova l'aggancio, preparare qualche lucido non è poi tanto difficile. Avevo solo bisogno di un'idea. Decisi che avrei spiegato come agiscono gli hacker e il motivo per cui Linux, il piccolo sistema operativo, all'epoca piccolo, che avevo creato, sembra coinvolgere così tanto gli hacker e i loro valori. Infatti terminai facendo riferimento non soltanto agli hacker, ma anche in generale ai loro scopi più elevati. Denominai il mio concetto, con il mio solito tono umile e dismesso, la legge di Linus. La legge di Linus. Secondo la legge di Linus, tutte le nostre motivazioni sono articolabili in tre categorie e, cosa ancora più importante, progresso significa attraversare le fasi di un processo di evoluzione, passando da una categoria a quella successiva. Le categorie nell'ordine sono sopravvivenza, vita sociale e intrattenimento. La prima fase, quella della sopravvivenza, è la falissiana. Qualunque essere vivente ha bisogno innanzitutto di sopravvivere. Ma le altre due? Assumendo che si possa essere d'accordo sulla sopravvivenza, quale forza motivazionale assolutamente fondamentale, le altre derivano dalla domanda: per cosa noi, in quanto persone, siamo disposti a morire? Direi che qualunque cosa per la quale uno sia disposto a perdere la vita debba essere una motivazione assolutamente fondamentale. Le mie scelte possono apparire discutibili, ma ritengo che funzionino. Se la canta se la suona comunque. Si possono certamente trovare esempi di persone che tengono in maggior conto i legami sociali piuttosto che la vita. In letteratura, naturalmente, Romeo e Giulietta ne è il classico esempio, ma si può anche pensare al concetto di morire per la tua famiglia, il tuo paese, la tua religione, come un modo di spiegare il concetto secondo cui il legame sociale sarebbe potenzialmente più importante della vita stessa. Quella dell'intrattenimento può sembrare una scelta strana, ma con intrattenimento intendo qualcosa di più che giocare col Game Boy. Sono gli scacchi e la pittura e la ginnastica mentale richiesta dal tentativo di spiegare l'universo. Einstein non era motivato da ragioni di sopravvivenza mentre pensava alla fisica, e probabilmente non era neppure una questione di legami sociali. Per lui era intrattenimento. L'intrattenimento è qualcosa di intrinsecamente interessante e stimolante. O almeno dovrebbe. E la ricerca dell'intrattenimento è senza dubbio una sollecitazione forte. Si può anche non provare lo stimolo di morire per il proprio Game Boy, ma pensate all'espressione morire di noia. Certamente alcuni individui preferirebbero morire piuttosto che essere sempre annoiati, il che spiega perché ci siano persone che si gettano da aeroplani perfettamente funzionanti, solo per il gusto di farlo, per tenere a bada la noia. Che dire poi della motivazione del denaro? Il denaro è certamente utile, ma la maggior parte delle persone si troverà d'accordo sul fatto che il denaro di per sé non è la spinta definitiva a motivare le persone. Il denaro è una motivazione per ciò che esso rappresenta, il supremo mezzo di scambio per quelle cose che ci interessano davvero, in grassetto. C'è da notare una cosa riguardo il denaro: di solito è facile comprare la sopravvivenza, ma è molto più difficile acquistare legami sociali o intrattenimento. In special modo l'intrattenimento con la I maiuscola, quello che dà senso alla vita. Non si deve sminuire comunque l'impatto sociale che deriva dal denaro, che lo si usi o meno per comprare qualcosa. I soldi restano una cosa formidabile. Tuttavia sono soltanto una delega per altri fattori motivazionali fondamentali. La legge di Linus di per sé non si occupa tanto del fatto che queste tre categorie motivino le persone, quanto piuttosto che il progresso stia nell'attraversare l'intera fase del cambiamento, dalla sopravvivenza alla vita sociale fino all'intrattenimento. Il sesso, certo, ovviamente all'inizio si trattava di sopravvivenza e lo è tuttora, non c'è alcun dubbio, ma negli animali più evoluti è progredito al di là della semplice sopravvivenza. Il sesso è diventato parte del tessuto sociale e per gli esseri umani il culmine del sesso è l'intrattenimento. Mangiare e bere? Esatto, la guerra, d'accordo. Forse la guerra non è ancora arrivata a quello stato finale, ma la CNN sta facendo del suo meglio perché lo raggiunga. Certamente all'inizio era una questione di sopravvivenza, si è poi trasformata in un mezzo di mantenimento dell'ordine sociale ed è inesorabilmente sulla strada di diventare intrattenimento. Gli hacker, ecco qua, manca pochissimo, eh? Tutto ciò si applica perfettamente agli hacker. Per loro la sopravvivenza non è la cosa più importante. Possono sopravvivere abbastanza bene con i Twinkies e la Jolt Cola. A parte gli scherzi, nel momento in cui si ha un computer sulla scrivania, è improbabile che la prima preoccupazione sia quella di procurarsi il pasto successivo o di avere un tetto sopra la testa. La sopravvivenza è sempre un fattore motivazionale, ma di certo non è più una preoccupazione quotidiana che esclude tutte le altre motivazioni. L'hacker è una persona che è andata al di là dell'uso del computer per sopravvivere. Mi porto a casa la pagnotta programmando e guarda piuttosto ai due stati successivi. Lui, o in teoria ma in pratica fin troppo raramente lei, usa il computer per i propri legami sociali. L'email e la rete sono mezzi bellissimi per avere una comunità, ma per gli hacker un computer significa anche intrattenimento. Non i giochi, non le belle immagini sulla rete, il computer in sé è intrattenimento. È da tutto ciò che deriva un progetto come Linux. Non ci si preoccupa di fare tanti soldi. La ragione per cui gli hacker di Linux fanno qualcosa è perché lo trovano molto stimolante e a loro piace condividere questa cosa interessante con gli altri. Improvvisamente uno ricava intrattenimento sia dal fatto che stia facendo qualcosa di interessante, sia dall'ingresso in un circuito sociale. È così che si ottiene il fondamentale effetto del network di Linux. Tantissimi hacker che lavorano insieme perché a loro piace quello che stanno facendo. Gli hacker credono che non esista uno stadio più elevato di motivazione, e proprio questo ha un forte effetto in campi che vanno al di là di Linux, come dimostrerà Pekka nel continuo del libro, fondamentalmente. Fine, un po' rapido. Grazie, caro. Molto... Perché, scusa, perché no. Un po' rapido, rapido nel leggere, dici? No, come, no, come no, sono andato? Era una domanda. Andava bene, bene, bene, bene, bene, molto bene, molto interessante. Buono, perché l'altro pezzo che leggerò la prossima settimana, o quello ancora dopo, è un po' più lungo, quindi... Siamo pronti a tutto, caro. No, comunque è interessante. Questo libro è veramente figo e... Ripeti, leggetelo. L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione. Grazie. Di Pekka Immanen. Ok. Con dei contributi di varia gente molto figa. E a proposito di contributi, se volete mandare contributi appunto riguardo a quello che vogliamo dire, possiamo dire, o volete che approfondiamo, o anche per partecipare direttamente poi alle nostre attività, piuttosto che alle aspetta, curiosità. Il primo sito online italiano del mondo della storia. Vai. La prima cosa messa online, no, non era un porno stranamente. Ma è il sito del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori della Sardegna. Beh! Cioè, che il primo sito online, cioè, c'è una discriminazione nei confronti della Sardegna in una formazione del genere. No, dai, è bello. È la prima, ho cercato. Sardi, scriveteci per bacchettare la scanzone. Che poi l'hanno lasciata, è stato bellissimo perché se cercate la pagina CRS4, che è la pagina del Centro di Ricerca, è stata lasciata come era all'epoca, quindi è tipo vecchio stile. Figo. Ah, bellissimo. Figo, in tutto ciò non abbiamo detto dove devono scrivere. Vai. Lo mettere dove devono. E ricomincia la tua scusa. Wombat, chiocciolainsiberia.net, la nostra email, o sul Facebook la pagina di Radio Wombat Firenze. Sono i nostri due canali comunicativi prediletti. Se vi passano di mente, li potete tranquillamente trovare sul sito da cui state ascoltando. Probabilmente ci state ascoltando. Naturalmente. Nel senso, probabilmente. Si spera che. Ma magari ci sono altri siti che condividono il nostro podcast. Incredibile sarebbe. Incredibile. E, quindi, diciamo che si può ascoltare una canzone. Persone. Visto che il 10 novembre del 95 moriva Kensaro Wiwa, poeta e attivista nigeriano. Nigeriano. Moriva impiccato. Impiccato. Ecco. Sì, impiccato dallo Stato. Esatto, andatevi a leggere le sue poesie e anche la storia della sua vita, perché è abbastanza importante e sconvolgente. E tutto il resto. Anche le sue poesie bellissime. Kensaro Wiwa, WIWA. Sì. Esatto. E nulla, il Teatro degli Orrori, gli dedico la title track del suo album A Sangue Freddo, che ora ci ascoltiamo. Dai, enjoy. Wombat. Non ti ricordi di Kensaro Wiwa, il poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi. Non ti ricordi di Kensaro Wiwa, perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Bugiardi dentro, fuori assassini, vigliacchi in divisa, generazioni intere ingannate per sempre. un eroe dei nostri tempi. Non ti ricordi di che sarà viva, perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Io non mi arrendo. Eccoci qua. Eccoli. Bella questa canzone, bellissima secondo me. La foga. Mi piace tanto, ragazzi. Grazie. Bene, bene, contento. Allora, sotto queste note anni 80, arriviamo alla rassegna. Grazie per c'è un ritmo effettivamente abbastanza diverso. È tardi, siamo a parte no, io non c'ho più nemmeno più freddo. Però vorrei dire una cosa, ci sarebbe una sigla in realtà per mandare. Ma davvero? Hai veramente ragione, però devo temporeggiare. Intanto parliamo del più e del meno. Parliamo un po' del più e del meno. Io volevo magari anche risfoderare, ma io guarda, c'avevo una cosa davvero da dire. No, nel senso che c'è la sottorubrica della di una rubrica che non esiste, cioè le periferie della destra italiana. Potevamo parlare dei legami tra il Clan Spada e il Casa Pound, che a Ostia sono noti ormai al grandissimo pubblico grazie a una capocciata in bocca data a un giornalista, ma non lo faremo perché abbiamo altro da fare, ne riparleremo magari un'altra volta. Però ricordiamoci che Casa Pound e altri movimenti, parlavamo l'altra volta di Forza Nuova, oggi potevamo parlare di Casa Pound, hanno legami con la mafia e la malavita organizzata, non solo nelle regioni, insomma, del sud Italia, ma in tutta Italia e anche penso anche all'estero. E assolutamente. E quindi andate a fanculo. Non parleremo neanche della big manifestazione di Varsavia, dove Forza Nuova per l'appunto ha partecipato con alcuni suoi membri, perché è agghiacciante. Ci siamo? No. Bene, no, no. Non ce ne frega un cazzo a noi di questa sigla, direi che possiamo andare avanti. Caro Grippo avrebbe da ridire, ma il caro Grippo non c'è. Abbiamo cambiato l'hardware per l'appunto in regia. E quindi non c'è da rompere i coglioni. Bene, allora iniziamo da oggi, lunedì 13 novembre 2017. Che è oggi, già hai detto giusto, già. Sì. No, allora, c'è oggi, stasera, tra poco a questo punto, la seconda data del Cineforum Femminista allo Studentato Autogestito di Fonte di Mezza, PDM. PDM. Verrà proiettata un documentario che si chiama Processo per Stupro, alle ore 21. Essendo il 25 novembre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, appunto c'è un percorso che fa parte ovviamente del Cineforum Femminista che va a parlare appunto della violenza sulle donne. Questo documentario racconta la storia di Fiorella, di una ragazza di 18 anni che denunciò delle violenze subite da un gruppo di uomini e questo processo fu mandato in Rai e in... insomma, fu mandato in onda in Rai e iniziò appunto un trend, sì. Diciamo che lo vediamo in questi giorni un'altra volta uscire fuori con i fatti di Bologna degli ultimi giorni in cui una ragazza è stata violentata e Preti, Salvini e simili hanno portato avanti delle posizioni aberranti sul fatto che una ragazza che si va a ubriacare in Piazza Verdi se l'è cercata Sì, sì, quindi da vittima a imputato. Esatto, da vittima a imputato. Quindi nasce con questo documentario, fu mandato in Rai e fu visto da milioni di persone. E iniziò questo punto trend della televisione di creare tribunali fuori dai tribunali in cui le donne vengono giudicate per le loro azioni e non per la violenza subita. Esattamente, però comunque giornata dedicata al cinema. Infatti anche in un altro luogo, sia il CPA, continuano le proiezioni, festeggiamento, in narrazione, diciamo, sì, della rivoluzione d'ottobre russa, con la proiezione dei 10 giorni che sconvolsero il mondo alle ore 22, un film del 1982 con la regia non lo diciamo andate a vedere lì. Anche perché sarà morto, no, è di Bondar Cook, dai, Bondar Cook. Ah, scherzavo infatti. Allora, martedì 14 novembre 2017 invece Emerson Anti-Day Show, concerto infrasettimanale appunto, sì, di martedì. Niente, Smash Sound Collective presenta White Dog Suicide in arrivo dalla Svizzera e Die Kellerhatten, perché vengono dalla Germania. Esatto. Lo stesso giorno c'è, sì, allo spazio autogestito di Novoli. Di Novoli, quindi penso nell'aula autogestita. Ci sarà un'iniziativa che si chiama dal titolo Sulle orme di Marx, lavoro mentale e classe operaia. Un lavoro di analisi marxista di internet. Ora, detto così magari non si capisce. Io ho assistito a questo incontro, e che era stato fatto qualche settimana fa, sempre a Firenze. Ci sarà l'autore di questo librettino, che è Guglielmo Carchedi, che è un professore all'università di Amsterdam, un professore italiano che lavora all'università di Amsterdam, che parla di come l'appropriazione capitalistica, diciamo, del plus valore si fossa e abbia delle tendenze potenti anche nel si possa vedere anche nel lavoro dei lavoratori mentali. I lavoratori mentali non sono quindi lavoratori che lavorano in fabbrica, ma sono tutti coloro che non lavorano direttamente con le braccia, ma per esempio lavoratori di internet, call center, piuttosto che insomma tutti pubblicità, creativi, la classe dei creativi, diciamo. Esatto. È abbastanza interessante, soprattutto per gli sviluppi che può avere questo discorso, perché per esempio quello di cui parlavamo prima, quindi la vendita dei dati, delle nostre azioni, di ciò che facciamo, non viene trattato in questo libretto, però è un argomento molto interessante, perché se ciò che noi produciamo crea profitto, perché noi non dobbiamo essere retribuiti? Sì, appunto, che fra l'altro è interessante e necessario informarsi, perché è una roba che è una bella tutti, nel senso. È un bell'argomento, C'era un murale bellissimo a Vienna, l'ho visto, con su scritto "You have nothing to lose but your data". Ok. Quindi magari un po' anche eccessivo, ma insomma, cioè. No, però è un argomento interessante. E mercoledì, poi il giorno dopo, 15, inizia il Forum Nazionale contro la Mafia, organizzato dagli studenti di sinistra. E quindi passiamo a giovedì. Sì, giovedì. Ci sarà tutta una giornata di interventi a Novoli. Esatto, quindi per sapere bene. Sì, aspetta, diciamo anche il luogo, mi sembra sia Novoli. Fondamentale. Novoli. Sì. Comunque dalle 16 in poi inizia il Forum Nazionale contro la Mafia. Giovedì 16 dalle ore 18 invece allo spazio Inchiostro, in Via Alfani. Sì. C'è la presentazione di Non è lavoro, è sfruttamento. Con l'autrice Marta Fana. È molto interessante anche questo. Ci sono un sacco di cose che succedono. Comunque c'è veramente un sacco di spazi e ci propongono un sacco di robe interessanti. A che giorno siamo? Scusa. A giovedì. Giovedì 16. È già l'agenda piena, perché questo è un libro molto interessante, edito dalla Terza, e parla di un delle nuove forme di sfruttamento. Marta Fana è una giornalista, appunto, penso del Fatto Quotidiano. Credo di sì. Forse qualcuno non si ricorda il nome, ma l'ha vista perché su YouTube ha girato parecchio. Il suo grande faccia per risposta merda. Con uno era una faccia, uno era una merda. Con Farinetti. Con Farinetti, sì, con Oscar Farinetti, nostro amico. Ascoltatore anche di Radio Uomo, no, uno di quei personaggi che veramente. No, diciamolo, fanno... finanziatore di Radio Uomo. Non è vero, neanche per scherzo. Non si dice nemmeno per scherzo questa roba. E, no, però c'è fu un confronto appunto in TV, non mi ricordo in che programma, in cui lei accusò Farinetti del trattamento che a Italy veniva riservato ai difendenti, quindi controlli, licenziamenti, eccetera eccetera. Se volete e se vogliamo un giorno magari ne parliamo anche con qualcuno dei diretti interessati di quella vertenza fiorentina. È molto interessante. E lo accusò di questo e lui ovviamente si infuriò e iniziò a minacciare querele su querele che l'avrebbe rovinata. Insomma, col ghigno. Quindi Marta Fana, che appunto ha scritto questo libro sulle nuove forme di sfruttamento, beh, soprattutto all'interno della logistica e del mondo di voucher anche, quindi è abbastanza interessante. Tocca a tutti. Accompagnata dal collettivo Clash City Workers. Esatto. Ci sarà appunto la presentazione del libro e poi un dibattito intorno a questi temi giovedì dalle 16 in poi, anzi no, scusate, 18. Dalle 18. Andate alle 16, guardate cosa succede, andate a prendere un caffè se ancora non è iniziato, perché o è alle 16 o alle 18. No, è giovedì 16 alle 18. Scusami, bene. Mi sembra. Ecco. Ottimo, scusate. Adesso torna. Se volete comunque andare alle 16, se mai qualcuno con cui fare due chiacchiere, lo trovate. Venerdì 17, il nulla. Il nulla? No, probabilmente c'è qualcosa, forse ce lo stiamo... venerdì 17. Scrivetecelo, mandateci le info. No, allora, dici, forse lo sei tu. Che io... aspettate, perché mi sta ripassando di mente. È strano, sta venerdì 17 forse. No, mi sa venerdì 17 forse no. Sicuramente venerdì... sabato e domenica. Sabato e domenica ci sono un sacco di cose. Infatti, esatto, comunque venerdì 17. Voi andate dove cazzo vi fare, nel senso. Vabbè, poi dunque, ci passiamo. Sono anche diverse cose interessanti. Che però... di sicuro. Noi adesso non abbiamo scritte semplicemente perché non è che ci possiamo ricordare tutto. E... sabato 18, vai. Quindi, all'Emerson, Rutical Dub Session. Serata dub con sound system autocostruito. Wow! Bello autocostruito. È sempre il solito poi, tra l'altro. Sì. Penso. Quello dell'Emerson. Sì. Dub Wise Connection Sound System. Beta Sista James Di Dio. Sista Anja, Anja e Guy on Mic. Insomma, beh, un sacco di nomi che voi conoscete sicuramente. Però una cosa abbastanza importante è sapere che durante la serata, che inizierà penso anche abbastanza, insomma, penso dalle 10, dalle 10 e mezza solitamente, ci sarà anche il banchino di Radio Wombat Wombat. Dei simpatici gadget e con le nostre, forse, facciacce sicuramente non si facciasse compagnia. Noi ci troverete. E anche schimichelli e abbeveraggi per tutti. Abbeveraggi Wombat. Abbeveraggi Wombat, ormai celebri in tutta Europa. In tutta Europa, sì, assolutamente. Si va poi al fine settimana in realtà. Esatto, perché, prendiamo tutti a due giorni. Esatto. 18 e 19. Sì, a Mondeggi sono due giornatone. Sono due giornatone. Cose veramente molto, esatto, interessanti. Allora, si parlerà di autonomia e territorio in resistenza. Esatto, questo è un po' il titolo della due giorni. Due giorni. Possiamo leggere anche ora per ora il programma di questi due giorni. Via! Almeno ve li potete segnare. Dalle sabato, dalle 14.30 c'è una passeggiata a giro per Mondeggi, in cui verrà raccontata anche la storia del posto. Dalle 15.30 ci sarà la presentazione di un libro, che è Abrauna Vez, ci sarà una volta, a cura di Elementi Kairos. Kairos. Alle 17 un'iniziativa su dal titolo Racconti del Chiapas e dal mondo passando per i banchi di della buona scuola. Wow. E presentazione del documentario Il segreto della bellezza, Popoli a difesa della terra, con l'autore Néstor Jiménez Díaz. Ok. Alle 19 conversazione con il Nodo Solidale. E si parlerà del Messico e delle battaglie che avvengono su quel territorio, che sono svariate. Dalle 20.30 ci sarà una cena di cui i proventi andranno a benefit per le denunce per i ragazzi di Mondeggi. a seguire festa fondamentalmente, canti e balli tradizionali toscani dal vivo con Riccardone and Friends, e quindi felicità, diciamo. Però dicevamo che la giornata continua nella domenica, sì, durante domenica 19, sì, a partire dalle 8:30. Boia. Con un'onesta colazione. Sì. Alle 9:30 invece si parte subito col dibattito aperto autonomia e territorio in resistenza, che è il nocciolo, succo, della, il succo, bravo, della manifestazione di questi due giorni. Partecipano Nodo Solidale, Italia-Messico, Comitato contro la geotermia, sì, Monte Amiata, Mondeggi, chiaramente, sì, Notav, Presidio No Inceneritore, Next Emerson, Comitato, sì, di Viale Corsica, Puzzle da Roma, The Gage, sempre da Roma, No Porto, che è Fiumicino, sì, esatto, sì, sì, sì, sì. Quindi varie realtà in lotta. Sarà, penso, un dibattito, una tavola aperta, una tavola aperta veramente con tanti interventi, e sarà anche lunga, quindi insomma molto interessante. Esatto, perché va avanti fino alle 13:30, dove per si mangiare, fermerà un attimo per sgranare, sì, perché giustamente ci si rifocilla. Esatto, poi dalle 16, esatto, workshop. Sarà bello quello. Valigetta degli attrezzi ad uso della comunità resistenti. Quindi mediattivismo e comunicazione a cura di acustici inventati. Autistici. Scusate, avete ragione. Autistici inventati. Che sono un po' anche i padri di tutti noi. Sono i nostri padri. Padre e madre. Padre e madre. Ecologia politica e forme di vita contadine a cura di Andrea Gelfi e Giovanni Pandolfi. E difesa della terra e solidarietà internazionale. Quindi sono questi tre temi. Okay. Di questa valigetta che contiene gli attrezzi appunto per resistere. Ottimo, ottimo. Domenica 19 invece, parallelamente, la sera alle ore 21, Dio Drone Festival 7, settimo settima, festival. Sì, è la settima edizione. La settima edizione, sì. Settimo capitolo della storia di Dio Drone, appunto. Dici. Saranno concerti bellissimi. Cioè, non vorrei dire. Ora, leggete la scaletta, io nel caso. No, no, vai, perché qui si parla del. No. Che come? Sempre domenica, vero? Sì, sempre, sì, domenica. No, allora, esatto. Momento topico. Allora, dove innanzitutto? Il Cinema di Castello di Firenze. Esatto. È il luogo. Anzi, no, se non sbaglio, è stata cambiata in uno. Ah, sì? Sì, tipo pochi giorni fa la location, e dovrebbe essere a Villa Vogel all'Isolotto. Ah, ok, allora controllate. Controllate sulla pagina Facebook di Diodrone. Sì, non andate in uno dei due fossi, perché poi diventa irraggiungibile l'altro. No, esatto. Formatevi prima. Sono abbastanza sicuro comunque che sia stata spostata lì. Comunque, quattro performance legate agli elementi naturali, che sono quindi acqua, aria, terra e fuoco. Quattro rituali in cui la voce assume forme e atmosfere del tutto diverse, ma che allo stesso modo evocano ognuno un particolare tipo di magia. Questo è la bellissima presentazione. La presentazione, sì. Passed, Walkie Talkie, Alos e Kibbe, Colin H. Van. Sì, C-H-V-I. Esatto. C-H-V-E, non so come si dica in belga. Quello. Perché lui è belga. È belga. Per l'appunto. E quindi sono i quattro, o le quattro, non so, sinceramente il sesso. Alos, progetto di una ragazza della cantante degli Ovo, peraltro. Non so se qualcuno conosce. No, comunque, quindi, cose molto belle, molto suoni belle, molto eterei, sperimentazione, okay, cose fighe, cose fighe, ragazzi. E qui si conclude la settimana, anche perché poi si va a lunedì, dove c'è Fuoco alle Polveri, esatto, le 16:30, esatto, yeah, come tutti i lunedì, qui su Radio Wombat. Detto questo, io volevo dire anche, effettivamente questa rassegna eventi che facciamo tutte le settimane è un po', ovviamente non è complessiva, ma è un po' degli eventi che ci piacciono, che sono tendenzialmente eventi gratuiti e comunque sempre autogestiti e portati avanti dal basso e non da locali che poi devono fare profitto, e questo è insomma abbastanza importantino. Forse ce la facciamo a farci rientrare un'ultima canzone. Faccio questa provocazione. Canzoncione? No, ma eri te che dicevi. Allora, ma dai, sì, si può anche fare. Si può fare? No, possiamo. Se ce l'avete nel bagaglio. Se no, salutiamo tutti e andiamo a mangiare. Ma certa fame, devo dire. Eclea. Intanto ci sollazziamo con questo sottofondo. Sì, che non è male. Ma prima c'era il pezzo di Scraps. bravo. Sì, esatto. Sì, vabbè, grazie. È il pezzo dei Men at Work, gruppone australiano, esatto. Overkill. Bellissimo comunque anche la puntata di Scratch. Boia. Beh, per ritornare un po' al discorso città, biciclette e quant'altro, andiamo città vetrina con Firenze. Esatto, con non ho idea di come si intitoli la canzone, anzi non c'è scritto. No, non me lo ricordo. È una bella trappola questa. Mala suerte 1530. Bravo. Ok. Dai, direi Wiwa. Eccoci qua. Senti, allora, eccolo. Oggi va che bene. Dovresti avere i vestiti sbrilluccicosi. Dovresti vedere i balletti e attillati. Ti è venuto bene. Vabbè, dai ragazzi, abbiamo la gioia alle stelle. Sì, abbiamo finito anche questa volta. La 42 è andata e sono 18:42 tra l'altro. È tardi. E ricordiamo, cioè ci sentiamo lunedì prossimo 16:30 Radio Wombat. E ci vediamo se vi va sabato sera all'Emerson. E nulla, veniteci a trovare lì, oppure veniteci a trovare a Mondeggi, oppure tanto siamo sempre ovunque. Sì. E viva, grazie a tutti, sì, grazie alla regia, grazie a chi Baldo, ha parlato, grazie a Lillo, sì. Anche a Baldo dicevo grazie, esatto, stavo dicendo pure io. Okay. Evviva. Grazie GP. Settimana, grazie caro. Tu Homo Letico. Ecco. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Sempre solo Wombat. Con le polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat.